Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani. Oggi ritorniamo alle guide pratiche del Sole 24 Ore. Il tema affrontato oggi, diciamo che fa un po' cominciare anche male la settimana, metterà un po' di cattivo umore qualcuno, ma insomma non la possiamo scampare. È cominciato novembre e dentro fine mese la quasi totalità dei contribuenti dovrà versare l'acconto di imposta e oggi il Sole offre il vademecum su come comportarsi con questa scadenza. Qual è il metodo di calcolo da utilizzare? Quali sono i casi particolari? Chi può considerarsi escluso da questo versamento e gli errori da evitare. Il Sole affronta nella guida pratica con degli esempi il caso del contribuente semplice, della società o del professionista. Vi ricordo che potete anche avvalervi della consulenza degli esperti del Sole inviando i vostri quesiti, collegandovi al sito del Sole 24 Ore www.ilsole24ore.com/, che è la solita barra di traverso, acconti, e le risposte le troverete domani sul quotidiano e a partire da mercoledì sullo stesso sito appunto del Sole. Il dossier di oggi è stato coordinato dal collega Giovanni Parente, che saluto. Ciao, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti, grazie. E poi naturalmente abbiamo anche due esperti da mettervi a disposizione. In questo caso potrete chiamarci come sempre all'800 24 00 24. Saluto e ringrazio per essere venuto a trovarci qui agli studi di Milano Massimiliano Sironi, segretario della Commissione Diritto Tributario dell'Ordine dei Commercialisti Nazionale degli Esperti Contabili di Milano. Ho detto tutto correttamente? Sì. Una carica lunga due metri. Una carica lunghissima. Benvenuto a Salva Danaio. E ben ritrovato a Giovanni Valcarenghi, esperto in materia fiscale del Sole e tra gli esperti chiamati a rispondere alle domande dei lettori che stanno arrivando tramite il sito con le modalità che vi ho spiegato. Valcarenghi, bentornato, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. E allora, io ho ricordato anche il numero verde, invece per interpellare gli esperti che sono presenti a Salva Danaio potete anche scriverci al 349-238-6666 per questo appuntamento fiscale che appunto interessa molti di noi. Prima di cominciare ad entrare nel vivo di questo tema, stamattina ridiamo un'occhiata alla borsa che oggi, come vi dicevo, è in calo in Europa, ma c'è una seduta che appare, una seduta di consolidamento dei rialzi della settimana scorsa. Parigi segna un meno 0,19, Francoforte meno 0,18, Londra meno 0,30, Milano meno 0,10%, tornata l'ora legale anche negli Stati Uniti, per cui oggi il mercato americano riapre, torna a riaprire alle 15.30 dopo che la scorsa settimana appunto aveva avuto l'apertura anticipata alle 14.30. Oggi Milano vede in rialzo Tenaris, che è ancora spinta dalla trimestrale già da diversi giorni, va bene anche oggi più 1,78%, recupera tutto il settore bancario, Intesa più 1,65, Popolare di Milano più 0,9, Unicredit più 0,7, Banco Popolare più 0,6, Mediolanum più 0,59%. I cali più pronunciati oggi sono sul settore del cemento: Italcementi perde il 3,76%, Buzzi Unicem meno 2, Mediaset meno 2,72%, titolo sotto i riflettori da un paio di giorni perché il mercato si interroga sul futuro delle quotazioni in relazione alla possibile crisi di governo che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Poi Fondiaria di nuovo in calo, meno 1,96%, Prismian, Azimut, meno 1,9%, insomma oggi una giornata con un calo di oltre un punto per molti titoli. Troviamo fra questi anche CIR, Autogrill, Monte dei Paschi e Pirelli. Lasciamo la borsa, euro su dollaro adesso a 1,39, lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, appuntamento con il fisco entro fine mese per il versamento dell'acconto d'imposta. Scade il prossimo 30 novembre il termine per il versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP. Per alcuni contribuenti si tratta di versare la prima e unica rata d'acconto, per altri invece si tratta di versare la seconda rata. L'acconto IRPEF per l'anno 2010 è da pagare solo se l'imposta dovuta per l'anno 2009 è superiore a 51 euro. In tal caso, la misura dell'acconto da versare per l'anno 2010 è pari al 99% di quell'importo. Per il momento, dunque, nessuno sconto del governo come accaduto l'anno scorso. A dover corrispondere l'anticipo fiscale all'erario sono le persone fisiche e società di persone, per le quali l'imposta coincide, salvo casi straordinari, con l'anno solare. Per chi calcola gli acconti su base storica, cioè sulla base dei dati 2009, l'importo base è quello che al netto delle detrazioni, crediti e ritenute d'acconto è indicato nella dichiarazione presentata per l'anno precedente. Naturalmente questo sistema non vale per i contribuenti che hanno visto ridursi drasticamente il proprio reddito e per coloro che hanno sostenuto spese che danno il diritto a deduzioni fiscali, come le detrazioni del 55%. Se l'acconto versato risulterà però a consuntivo inferiore a quello effettivamente dovuto, scatterà una sanzione. Attenzione quindi a fare bene i conti. 800 24 00 24, numero verde per le domande in diretta, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Allora, prima di partire e spiegarvi l'ABC del versamento dell'acconto d'imposta, volevo raccontare una cosa con il dottor Sironi, dottori commercialisti di Milano, perché anche i musicisti pagano le tasse. Abbiamo sentito peraltro la situazione in cui si trova Franco Califano nel corso del nostro giornale radio, che non è esattamente attinente al tema che le voglio far raccontare. Ma c'è questa iniziativa abbastanza singolare che sta portando avanti proprio l'Ordine dei Commercialisti di Milano, che sta offrendo questo sportello informativo ai musicisti. Ma quanto è complicata la loro, come dire, la loro vicenda fiscale, tale da avere bisogno di un'assistenza fiscale così, così importante? È parecchio complicata, perché in realtà gli artisti e i musicisti nel caso specifico sono hanno un insieme di norme peculiari, quindi esulano dalla generalità dei contribuenti, dei lavoratori autonomi. Sì, perché hanno la SIAE e tante altre cose, appunto, che il normale contribuente, diciamo. Normali contribuenti, esatto. E quindi loro poi hanno una formazione di natura, diciamo, umanistica, quindi non tecnica, e a volte è difficile riuscire a spiegare gli esatti contenuti delle norme tecniche fiscali o quelle delle norme amministrative sulla SIAE. Benissimo, quindi insomma ricordiamo per chi fosse interessato, questa iniziativa è iniziata giovedì scorso, 4 novembre, per tutti i giovedì del mese dalle 15 alle 19 al Conservatorio Verdi di Milano c'è questa consulenza gratuita e personalizzata offerta a tutti i musicisti da parte appunto degli esperti dell'Ordine dei Commercialisti. Andiamo alla guida pratica di stamattina. Giovanni Parente, allora, quali sono gli aspetti principali affrontati dal dossier in edicola oggi? Abbiamo cercato di analizzare tre situazioni tipo: la situazione del contribuente persona fisica, detto più semplicemente quello che versa l'IRPEF. Io, te e qualcun altro. Sì. Poi c'è anche il caso delle imprese, non solo quelle piccole e medie, ma anche quelle di maggiori dimensioni, che sono invece sottoposto al trattamento IRES, e da ultimo ma non per ultimo il caso dei professionisti e dei lavoratori autonomi, che si trovano davanti a un bivio abbastanza importante anche per quanto riguarda il versamento dell'IRAP, anche a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione, che ha esteso l'area dei soggetti che non sono tenuti a versare il tributo in assenza del requisito dell'autonoma organizzazione. Le prime domande che stanno già arrivando ci dimostrano che in parte abbiamo colto nel segno, perché sono domande di contribuenti, imprenditori, professionisti, società che prevedono, anche per effetto della difficile congiuntura economica, un calo di fatturato, una difficoltà insomma a mantenersi sui livelli reddituali degli anni precedenti. E le domande più frequenti, insomma, anche Giovanni Valcarenghi sta rispondendo in quest'ora a qualcuno, è proprio: che cosa succede nel caso in cui appunto il mio fatturato sia molto ridotto? E che metodo posso adottare? In questo caso c'è l'ancora di salvataggio, non priva però di conseguenze, del metodo previsionale, cioè prevedere un minor carico fiscale in virtù del calo dei ricavi o degli oneri e delle ritenute subite. Questo consente in qualche modo di alleviare l'aggravio fiscale, ma insomma il rovescio della medaglia è che poi a consuntivo debba esattamente verificarsi quello che si prevedeva, altrimenti cioè, è comunque presente il rischio di sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria. Allora, proprio per tenere conto della crisi economica, Valcarenghi, appunto Giovanni lo stava ricordando e lo abbiamo ricordato noi anche nella nostra scheda, in realtà un anno fa, in piena crisi, il governo era intervenuto permettendo un ridotto versamento di acconto, che era comunque differito, quindi non era un regalo. Quest'anno si ritorna al versamento dell'acconto nella misura appunto del 99%, in alternativa, per chi ancora si trova in situazione di difficoltà finanziaria, Giovanni ricordava, si può utilizzare il cosiddetto metodo previsionale delle tasse da versare per il prossimo anno. Possiamo intanto ricordare la differenza fra metodo storico, appunto, e metodo previsionale per il calcolo dell'acconto? Sì, certamente. Allora, diciamo che innanzitutto il fisco prevede che i contribuenti producano una situazione standard di anno con anno, e quindi guardando ciò che abbiamo dichiarato per l'anno 2009 ci chiede di versare un acconto che è del 99% o del 100%, insomma una quota sostanziosa durante l'anno in corso. Un pezzettino l'abbiamo già versato nel mese di giugno-luglio quando abbiamo pagato il saldo e il primo acconto. Adesso abbiamo il secondo appuntamento che è alla fine di novembre per versare la seconda rata di acconto. Questo corrisponde all'applicazione del metodo storico, vale a dire replicare la situazione dell'anno prima come se si dovesse rappresentare anche sull'anno in corso. L'acconto però non è un obbligo a tutti gli effetti, nel senso che è possibile prevedere, come è stato detto, di andare a produrre per l'anno 2010 una minor quota di imposte. E allora, sulla base di una simulazione, ma è bene dire una simulazione a rischio e pericolo del contribuente, è possibile, prevedendo questa contrazione, di ridurre l'ammontare degli acconti. Dico che all'atto pratico si agisce poco nel mese di giugno-luglio, qualche ragionamento in più invece è bene farlo adesso nel mese di novembre, quando abbiamo 10-11 mesi alle spalle, quindi una situazione più chiara. Certo, senta, io qui vado subito a farle una domanda in palese conflitto di interessi, perché mi chiedo quando si debba... Senta, può abbassare? Io credo che forse lei abbia la radio alta, perché sento un po' di ritorno, mi sbaglio, Valcarenghi? No, provo a basso, vediamo. Ecco, infatti, perché sento il ritorno e qua si sente quest'eco che è un po' fastidioso anche per gli ascoltatori fuori. Mi chiedo quando si debba stabilire se effettuare il calcolo dell'acconto in maniera previsionale o secondo il metodo storico, perché stavo ragionando questa mattina sulla base del fatto che ho rifatto gli infissi di casa mia e il mio commercialista stamattina mi ha detto: no, tu ormai non fai più in tempo a dire al tuo sostituto d'imposta che puoi fare il calcolo previsionale, perché io potrei già avvalermi adesso del fatto che utilizzerò l'incentivo fiscale il prossimo anno nella dichiarazione dei redditi. Non sì, faccio allora più in tempo. Toccato un punto che riguarda i contribuenti che presentano la dichiarazione avvalendosi del meccanismo del 730, quindi ecco, con il sostituto d'imposta. Lì c'era un termine che coincideva con il mese di settembre. Perfetto. E quindi andava comunicato al sostituto d'imposta l'intenzione di ridurre l'ammontare automatico degli acconti. Diciamo che però nulla è perduto, perché insomma ciò che versiamo a titolo di anticipo potrà essere recuperato sia pure con un differimento finanziario. Benissimo. Con il prossimo 730, quindi recuperato velocemente. Sironi, un'altra domanda a lei prima di andare alla nostra prima pausa: chi sono i soggetti completamente esclusi dall'avversamento di questo acconto? Da questo adempimento. I soggetti completamente esclusi da questo adempimento sono i soggetti che hanno una prevedono, se utilizziamo il metodo previsionale di cui parlavamo prima, di avere un'imposta debito per massimo 52 euro, oppure i soggetti che non hanno mai presentato dichiarazione dei redditi legittimamente perché non avevano redditi tassabili e quindi sostanzialmente non hanno storia reddituale, i soggetti falliti, gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2010, stiamo parlando chiaramente di persone fisiche, e i soggetti che come persone fisiche hanno un rigo differenza RN34 dello scorso modello che sia non superiore all'importo di 51 euro, questo per i soggetti IRPEF. Per i soggetti IRES il rigo differenza, che è un altro rigo, è l'RN17, deve essere non superiore a 21 euro. Quindi questi sono i soggetti. È evidente poi che mentre per i soggetti IRPEF è più immediata dare un'identificazione di coloro che non sono soggetti a tale obbligo, per i soggetti IRES, come diceva prima il collega Valcarenghi, bisogna stare molto attenti perché, utilizzando il metodo previsionale e in virtù anche della crisi che ha colpito molti settori, si potrebbe risultare a credito, ma le conseguenze a giugno dell'anno prossimo, qualora non si fosse a credito, potrebbero essere degli aggravi per sanzioni, per omesso o carente. Questo è un aspetto molto interessante che magari adesso approfondiamo nella seconda parte del programma, perché visto che comporta così tanti rischi scegliere questo metodo previsionale, mi chiedo come mai sia stata data questa facoltà di farlo scegliere, perché insomma molte aziende a questo punto, se addirittura sono nel timore di dover subire chissà quali conseguenze a giugno, e allora mi chiedo veramente a chi convenga palesemente optare per questa strada. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Già pronto Fabrizio D'Alecco, che sentiremo non appena riprendiamo tra qualche minuto la trasmissione. Riprendiamo Salvadanaio, che questa mattina si occupa di tasse. Lo so che per voi è una brutta parola, una parolaccia, però questo mese molti contribuenti devono versare l'acconto di imposta sui redditi che vengono percepiti quest'anno e per i quali poi la dichiarazione dei redditi si farà nella prossima primavera. Allora, come si deve espletare questo adempimento? Come comportarsi con questa scadenza? Qual è il metodo di calcolo da utilizzare? Perché abbiamo abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, ce ne sono due. Quali sono i casi da particolari? Quali sono i soggetti esclusi da questo adempimento? Chi sono i contribuenti minimi? Insomma, stamattina ci stiamo interrogando su tanti aspetti. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Con noi stamattina il collega del Sole 24 Ore, che ha coordinato la guida pratica del Sole, che oggi è in edicola con il quotidiano, Giovanni Parenti, e poi Parente, e poi Massimiliano Sironi, Ordine dei Commercialisti di Milano, e Giovanni Valcarenghi, esperto in materia fiscale per il Sole e tra i consulenti che stanno rispondendo anche alle domande dei lettori del Sole che vengono inviate attraverso il sito. E ricordiamo, Giovanni, ancora magari se vuoi la modalità per rispondere e per interagire con i lettori del Sole. Praticamente i lettori possono inviare attraverso il sito le domande, e quando riceveranno una risposta? Allora, le prime risposte saranno pubblicate sul quotidiano di domani, mentre tutte quante le risposte che saranno fornite ai nostri esperti saranno disponibili online sempre all'indirizzo www.ilsole24ore.com. /acconti da mercoledì mattina a partire dalle 8. Benissimo, allora eravamo in sospeso con la questione da affrontare: quando e come vale la pena fare il metodo storico di calcolo dell'acconto, oppure il cosiddetto metodo previsionale, che non è che abbia poi tutta questa convenienza. Su questo aspetto ci ritorniamo fra un minuto. Adesso sentirei Fabrizio D'Alecco, che è l'ascoltatore che ci chiama in diretta. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, volevo fare una domanda al e perché si Parente. Scusa Fabrizio, ci mancherebbe altro. Io sono un contribuente che ha beneficiato nel triennio tra il 2007 e il 2009 del 55% per gli interventi per il risparmio energetico. Sì. Tale bonus, che era di circa 5.000 euro all'anno, l'ho terminato nel 2009, quindi nel 2010 sicuramente non ho tale credito d'imposta. La domanda è: nel versare l'acconto del 30 di novembre dovrò tenere conto del fatto che non ho più i 5.000 euro di credito, e per cui dovrò fare un versamento molto più sostanzioso rispetto a quello fatto dall'anno scorso, oppure devo fare ancora il 99% dello storico, quindi del 2009, Fabrizio, che è a mio vantaggio, chiaramente. Certo. Fabrizio, visto che abbiamo, piuttosto che interpellare Giovanni, che è un collega del Sole, abbiamo due commercialisti, sentirei loro. Dottor Valcarenghi, cosa pensa della situazione del nostro contribuente D'Alecco? Siamo stavolta a dare una risposta positiva, nel senso che il contribuente non deve fare alcun ricalcolo a suo danno, può versare tranquillamente gli importi che derivano dalla dichiarazione dell'anno precedente. Ovviamente saprà che se nel 2010 produce un analogo ammontare di reddito, in sede di saldo dovrà mettere mano a portafogli e, diciamo, pagare quanto manca. Però l'acconto ci dà problemi solo quanto lo vogliamo ridurre, mentre invece non dà nessuna difficoltà nell'ipotesi in cui dovrebbe incrementare. Non avevamo nessun dubbio a questo proposito. Massimiliano Sironi, quali sono le modalità pratiche di versamento di questo acconto? Perché io che faccio la dichiarazione dei redditi attraverso il 730 è il sostituto d'imposta, quindi l'azienda che prevede a fare il recupero, quindi direttamente il versamento. Negli altri casi la modalità è unica, attraverso il modello di pagamento unificato, cosiddetto modello F24, e il versamento si fa compilando, è diventato, rispetto ad anni fa, con l'introduzione del modello F24, è diventato molto semplice, perché in realtà basta compilare nella sezione erario. Il modello F24 è diviso in sezioni. Nel caso specifico, quando si parla di IRPEF e di IRES, bisogna compilare la sezione erario con l'apposito codice tributo, che si può facilmente reperire dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Diciamo che i codici tributo per l'IRPEF secondo acconto sono 4034 e per l'IRES sono 2003, se non ricordo male, mentre per l'IRAP è il 3813, mettere il periodo di riferimento, che è l'anno 2010, e poi nella colonna importi a debito indicare l'imposta relativa al secondo acconto. Benissimo, benissimo, sembra tutto chiaro, per voi lo è sicuramente, io faccio un po' più di fatica. Però ecco una cosa che non abbiamo ricordato, Giovanni, ritorno da te, tanto per essere molto molto chiari con i nostri ascoltatori. Con la dichiarazione dei redditi che compiliamo in primavera, fra giugno e luglio, i contribuenti hanno versato il saldo 2009 e il primo acconto 2010, quindi questo acconto che paghiamo adesso entro il 30 novembre è il secondo acconto. Perfetto, esattamente. Ci sono situazioni specifiche che magari in cui alcuni contribuenti potrebbero trovarsi. Ad esempio, che cosa succede se io sono il proprietario di un immobile, che è un immobile locato, e il mio affittuario decide di andare, certo, di andare via. Quindi io quest'anno in questo caso potrebbe essere, ecco, questa una delle situazioni in cui applicare il previsionale famoso. Ecco, quando non stiamo parlando di casi di contribuenti persone fisiche, potrebbe essere una di quelle situazioni. È normale che, come dicevi tu, il metodo previsionale ha delle conseguenze, però può essere adottato laddove si preveda che gli introiti o i ricavi siano drasticamente ridotti rispetto all'anno precedente. Ecco che quindi, laddove un canone di locazione era una fonte di introito molto alta per il contribuente, questo potrebbe essere una delle opportunità per poter adottare il metodo previsionale. Certo, quali altri casi conclamati, dottor Valcarenghi, ritorno da lei, possono così suggerire ad un contribuente di utilizzare questo metodo per il calcolo dell'acconto? Solitamente le ipotesi che ricorrono di più per le persone fisiche sono quelle del sostenimento di spese, penso magari alle spese mediche, un esempio prima è venuto da Fabrizio, per chi volesse attivare il 55%, visto che il 2010 è l'ultimo anno, salvo proroghe che dovessero arrivare, quindi un intervento che comincia nell'anno 2010 mi dà sicuramente diritto a godere dalla prossima dichiarazione di una detrazione fiscale che quindi mi dà la possibilità di ridurre l'acconto. Ci sono poi delle altre ipotesi che magari sono meno frequenti e sono quelle delle perdite di reddito, cioè avevo un reddito negli anni precedenti, parlo sempre di redditi non già soggettati a ritenuta, perché il lavoratore dipendente sa già che le proprie imposte sono trattenute direttamente sulla busta paga. Parlo di altri redditi aggiuntivi che, se venissero meno nell'anno 2010, danno diritto appunto a questo ricalcolo. Le ipotesi però, devo dire, più frequenti in cui si applica all'atto pratico il metodo previsionale riguardano solitamente le imprese che hanno visto magari, ahimè, un andamento del 2010 non in linea con quello degli anni precedenti. Allora lì forse è più ragionevole fare un qualche ricalcolo per gli acconti. Ecco, il ricalcolo degli acconti, se queste imprese che si trovano ancora in una situazione di difficoltà, Sironi, vengo a lei, non hanno liquidità disponibile per fare il versamento adesso entro fine novembre, che cosa succede? Ecco, succede che c'è la possibilità non versare gli acconti alla data ed eventualmente utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso, che è previsto dalla nostra norma tributaria e che può essere suddiviso nel cosiddetto ravvedimento operoso breve, entro 30 giorni dalla data originaria dell'adempimento. Quindi entro il 30 dicembre. Dicembre, esattamente, o il ravvedimento cosiddetto lungo, che in questo caso andrebbe fatto entro il 30 settembre del 2011. La sanzione. Cosa comporta? La sanzione per l'omesso versamento delle imposte è pari al 30%, la sanzione piena. Con ravvedimento breve la sanzione diventa del 2,5%, con invece la sanzione ridotta per il ravvedimento lungo diventa del 3%. Oltre a queste due sanzioni, quindi 2,5% entro i 30 giorni e il 3% oltre i 30 giorni, c'è un interesse dell'1%. Certo, cosa significa, dottor Sironi, concretamente l'istituto del ravvedimento? Che noi avvisiamo il fisco del fatto che non riusciremo ad adempiere a questa scadenza e quindi in questa maniera il fisco è un po' meno severo, no? Non esattamente, l'istituto del ravvedimento prevede che noi il 30 di novembre non effettuiamo il versamento anche se siamo soggetti a farlo. E spontaneamente, quindi ravvedimento operoso ha proprio questo significato di ravvedimento spontaneo, senza invito del fisco, spontaneamente regolarizziamo la nostra situazione. Mi permetto di ricordare due cose in proposito. La prima è che con l'inizio di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza è precluso il ravvedimento operoso, se l'accesso, ispezione e verifica riguarda quell'annualità per cui io vorrei ravvedermi e per cui non ho versato l'acconto. La seconda cosa è che potrebbe essere che prima che arrivi l'avviso di accertamento o la cartella esattoriale, mi arrivi un avviso bonario con una sanzione ridotta pari al 10% di quello che avrei dovuto versare. In questo caso la sanzione ridotta, qualora il contribuente abbia torto, può regolarizzare la propria posizione versando l'imposta richiesta, in questo caso secondo acconto eventualmente omesso o carente, e il 10% di sanzione ridotta al posto del 30%. 800 24 00 24 torna a ricordarvi il numero verde per intervenire. Vi ricordo anche il sito www.ilsole24ore.com/acconti. Se invece di chiamare noi volete inviare il vostro caso, la vostra domanda al sito del Sole 24 Ore, qui c'è una rosa piuttosto ampia di esperti che sta già prendendo in esame le numerose domande che stanno arrivando questa mattina. Da domani alcune risposte sulle Sole 24 Ore, da mercoledì invece tutte le risposte sul sito del Sole 24 Ore. Abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi Raffaele da Torino tra poco. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, l'ultima parte dedicata appunto al versamento dell'acconto rimposta entro fine mese. Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore, noi stiamo parlando anche di coloro che potrebbero versare meno del previsto se anche quest'anno sono stati un po' investiti dalla situazione economica che continua a rimanere molto difficile per molte imprese, soprattutto per molte piccole imprese. In questi giorni c'è anche il dramma delle popolazioni del Veneto che potrebbero anche far scattare una sorta di sciopero del versamento delle tasse. So che voi ve ne occuperete diffusamente domani per il Quotidiano. Sì, il Quotidiano sta preparando un approfondimento che parte però dalla notizia lanciata ieri da Radio 24, dall'intervista al vicepresidente degli industriali veneti, che appunto nel lanciare un messaggio al governo ha detto chiaramente: se non arriveranno aiuti necessari a superare questo grave momento di difficoltà, potremmo valutare la possibilità di non pagare gli acconti di fine novembre, anche perché insomma in questo caso bisogna prendere in considerazione che le imprese in quell'area colpita dall'alluvione avranno sicuramente due mesi di ricavi e di redditi in meno rispetto ad altre imprese. Per non parlare di tutto quello che dovranno spendere per rimettere in piedi le aziende. Ovviamente, certo. Il ciclo produttivo si ferma, bisognerà rimetterlo in moto, e quindi questo comporta assolutamente un aggravio per tutte le imprese che sono situate in quella zona. Benissimo, per modo di dire. Insomma, grazie per averci raccontato anche di tutto questo, e ritorniamo alle domande degli ascoltatori. Raffaele da Torino, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo chiedere, a proposito dell'IRAP, per alcune regioni è stato previsto una maggiorazione dell'acconto per problemi di deficit sanitario. Ecco, normalmente il secondo acconto è quello interessato per le persone fisiche o quelle con periodo di imposta coincidente con l'anno solare. E qui volevo sapere, per una società che ha periodo a cavallo d'anno, quindi 2009-2010, questa maggiorazione si applica anche eventualmente al saldo, eventualmente al primo conto, o solamente in ogni caso al secondo conto? Grazie Raffaele. Andrei a Valcarenghi, perché mi risulta, almeno me l'ha suggerito Giovanni Parente, che forse lei ha risposto già ad una domanda simile anche appunto raccogliendo i quesiti che stanno arrivando al sito del Sole 24 Ore. Valcarenghi, intanto il Piemonte è una di quelle regioni dove si sta applicando una maggiorazione di IRAP per far fronte al deficit sanitario regionale? No, il Piemonte non è tra queste, perché sono Lazio, Campania, Molise e Calabria, però probabilmente la domanda dell'ascoltatore potrebbe essere anche interessata da un imprenditore piemontese che ha un'azienda sita in una di queste regioni, quindi l'IRAP è diretta sempre alla regione in cui è materialmente ubicato l'impianto produttivo, quindi nel caso specifico queste regioni hanno una maggiorazione dello 0,15% che si applica sulle aliquote IRAP ordinarie, e nel caso prospettato al lettore però, se abbiamo un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, questa maggiorazione a mio modo di vedere non trova applicazione, perché riguarda gli acconti di imposta, quindi loro si trovano come azienda ad essere in ritardo di un anno, se mi permettete questo termine, e provvederanno con questa maggiorazione sui successivi versamenti. Allora, c'è un ascoltatore, Mario da Caserta, che al 349-238-6666 ci chiede se si può dilazionare questo acconto. Allora, Massimiliano Sironi, ritorno da lei. Prima abbiamo spiegato l'istituto del ravvedimento, che è quello che possono utilizzare i contribuenti che non dispongano assolutamente di alcuna liquidità per poter versare appunto l'acconto di fine mese. Ma nel caso in cui il versamento da fare sia molto alto, si può ricorrere all'istituto della rateizzazione? No, non è possibile in sede di secondo acconto rateizzare. Ricordo che questo era possibile in sede di primo acconto e saldo, quindi con partenza il 16 giugno eventualmente del 2010, ma non è possibile assolutamente farlo per il secondo acconto. Leggevo però che se l'acconto da versare è di ammontare superiore ai 257,51 euro non si rateizza ma si paga in due soluzioni, ho capito male? Sì, allora l'acconto totale, come è stato detto prima nella scheda di presentazione, per i soggetti IRPEF è pari complessivamente al 99% e per i soggetti IRES è pari complessivamente al 100%. Entrambi questi ammontari si suddividono in due periodi dell'anno, in occasione del versamento del saldo dell'anno precedente, quindi tendenzialmente il 16 di giugno, si paga il primo acconto, che è pari al 40% dell'acconto totale dovuto, e in sede di secondo acconto, il 30 novembre, si paga il 60% dell'acconto dovuto. Quindi l'acconto totale è 99% per i soggetti IRPEF e 100% per i soggetti IRES. Quindi queste sono le due, sono le due e si divide in corso d'anno finanziariamente. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori. Approfittato del nostro numero verde, adesso Pietro da Brescia. Pietro, buongiorno. Ascolti, vorrei fare una piccola digressione per quanto riguarda l'argomento di oggi, per un problema un po' particolare. Allora, io negli anni passati ho usufruito delle agevolazioni per quanto riguarda sia il 36% per la ristrutturazione degli immobili, sì, sia per quanto riguarda le spese per riqualificazione energetica. E quindi 55%. Esattamente, quindi sono in corso di rateizzazione normale. C'è un problema. Allora, quest'anno non ho reddito imponibile, per cui non ho assolutamente, quindi non potrei fare teoricamente nessun tipo di sgravio, perché non devo presentare nessun modello fiscale. Sono incapiente totale. Cosa succede? Perdo la rata oppure posso in un certo senso portarmi avanti ancora per un anno, sperando che negli anni futuri la situazione possa cambiare, situazione che naturalmente le auguriamo, Pietro. Giovanni Valcarenghi, allora forse perde l'opportunità di far valere l'incentivo fiscale il nostro contribuente da Brescia. Sì, purtroppo la rata viene perduta, non può essere prorogata negli anni successivi, ed è un problema che riguarda tutte le detrazioni. Sono state citate il 36%, il 55%, ma questo può valere anche nel caso delle banali spese mediche, anche di importi sicuramente meno importanti. Ci danno il beneficio fiscale intanto in quanto esista una imposta da poter abbattere con queste detrazioni. Se manca l'imposta, il beneficio esiste teoricamente, ma non ci dà nessun vantaggio. So che pratico. È tutto molto frustrante, ingiusto anche, perché quantomeno un po' di pazienza il fisco potrebbe averla. Invece, quando si tratta di chiedere, chiede subito; quando si tratta di restituire, invece, niente, non aspetta neanche un attimo. Allora, c'era una situazione che ci ha suscitato un po' di curiosità, eravamo un po' indecisi se rispondere o meno, però forse vale la pena anche affrontare questo caso. Parliamo ovviamente dei nostri piccoli contribuenti che ci ascoltano e che ci scrivono al 349-238-6666. Allora, un'ascoltatrice ci scrive: lavoro come collaboratrice domestica familiare. Allora, ci ha suscitato un po' di curiosità il fatto che sostiene di non ricevere busta paga né altro, a parte i bollettini dell'INPS con i quali appunto versa regolarmente, la famiglia presso la quale lavora versa per lei i contributi all'istituto di previdenza. Ho diritto alla busta paga IRPEF affinché mi venga scalata direttamente? Adesso io non ho capito bene a cosa si riferisca l'ascoltatrice, però Giovanni, parente, il fatto di versare i contributi IMSS e di non ricevere busta paga non credo che siano due situazioni che possano convivere. No, evidentemente no, c'è qualcosa, detto molto banalmente, c'è qualcosa che non va, perché in qualche modo ha diritto a una retribuzione, che questa retribuzione lasci una traccia e quindi sia in qualche modo dichiarabile al fisco, e non basta soltanto che le siano versati i contributi previdenziali. Quindi insomma il consiglio è alla nostra ascoltatrice, insomma, di parlare col suo datore di lavoro e fare un po' di chiarezza su quello che è successo. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona e quindi insomma di chiarire questo aspetto. Allora, come avete sentito, sta arrivando la sigla di chiusura, devo salutarvi. Per tutte le domande che non siamo riusciti a soddisfare, scrivete al sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, acconti, ci sono tutti gli esperti pronti a risolvere i vostri casi. Grazie a Giovanni Parente. Grazie a voi. Grazie a Massimiliano Sironi, a presto. Grazie a voi. Grazie anche a Giovanni Valcarenghi, ci risentiamo presto anche con lei. Grazie anche a voi. Salva Danaio torna domani, grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti in assistenza tecnica. Buona giornata a tutti.